E bentornati a questa puntata di Aperitivo Ludico, il podcast che parla della mia passione, dei giochi di ruolo e di tutto ciò che ci gira attorno. Questa settimana non sapevo bene di cosa andare a parlare. Sono andato in libreria e in libreria, nella mia scaffalatura, nella mia libreria, e ho pescato un gioco che è un po' che non gioco, ma che mi è piaciuto molto ai tempi. Un gioco che si chiama Il gusto del delitto. Devo dire che a me sono sempre piaciuti, per quelli che mi stanno seguendo su YouTube, possono vedere il libro la copertina a favore di webcam. Per gli altri vi descrivo che è un libro giallo con una copertina disegnata. Giallo in che senso? Nel senso che oltre a essere di copertina gialla come i vecchi gialli Mondadori, per chi se li ricorda, per chi è vecchio come me, ormai 39 e su, sono quei gialli, quei libretti che venivano venduti e che raccontavano storie di tipo investigativo, alla Agatha Christie. E infatti questo gioco è stato costruito così editorialmente perché vuole richiamare, perché il gioco richiama, quei gialli alla Agatha Christie. Lasciamo un attimo da parte il gioco. Come vedete, ho delle cuffie attorno. Ho fatto un piccolo investimento, un po' perché ormai le mie erano distrutte, cioè proprio spaccate a metà, e un po' perché spero che così si senta un po' meglio finché non potrò investire dei buoni soldini e acquistare qualcosa di professionale o andarlo a rubare a qualche radio importante. Insomma, e non vedo se costano meno i corsi da ladri o e le cuffie. Nel frattempo non manca mai il nostro aperitivo. E tornando a bomba, a quello di cui dobbiamo parlare, riprende in mano Il gusto del delitto. In inglese Taste for Murder. Se vi ricordate, se l'avete visto, o vi consiglio di andarlo a ripescare, sempre perché noi ci colleghiamo a qualche altra opera, a qualche altro media, Il delitto è servito, un film degli anni 80, credo, 90, in cui dei personaggi venivano invitati in una casa. Ognuno con il proprio altarino nascosto e venivano commessi degli omicidi. Alla fine il maggiordomo svelava chi è il colpevole e come aveva fatto in due o tre diversi modi. A dire la verità, io lo chiamo il film del Cluedo, ma essenzialmente è un film molto divertente da vedere che vi consiglio e che va a riprendere quei temi cari del giallo in cui colpevole è sempre il maggiordomo, in cui c'è la fatalona che ha qualcosa da nascondere, il proprietario della casa che viene ucciso perché ricattava tutti gli invitati, la sala da dove si beve il whisky, la libreria, la sala da pranzo, l'ingresso, tutti quei stereotipi da libro e da film giallo alla inglese, alla Agatha Christie. La stessa cosa che fa il nostro gioco, ricrea queste storie, questi gialli, queste investigazioni alla Agatha Christie. Quindi immaginatevi nella campagna inglese con l'investigatore che risolve il caso e alla fine dice chi è stato, e in cui tutto sembra bello, bellissimo, come un pratino inglese curato, invece sotto si nasconde tanta di quella merda che solo metà basta. Ok? Tra l'altro, giusto per incuriosirvi, vi dico che questo non è un giallo in cui c'è un master, in cui c'è un giocatore che prepara un mistero che gli altri devono risolvere, ma invece coinvolge tutti i giocatori per creare collaborativamente insieme una storia di tipo giallo. Attraverso le meccaniche, questo gioco vi guida, vi invoglia e vi premia a creare un tipo di storia di questo tipo. A me personalmente i gialli fanno impazzire. Direi che, come anteprima, abbiamo detto abbastanza, sono passati 5 minuti e breve stacchetto e introduzione al gioco. Come al solito, vi aspetto via. Mi sono dimenticato di dirvi prima, io le presentazioni di casa, io sono Marco Andretto, questo è Aperitivo Ludico, potete trovare i podcast e i video su aperitivoludico.blogspot.it oppure sulla pagina Facebook di Aperitivo Ludico o sulla pagina Google Plus di Aperitivo Ludico. Adesso vediamo di attrezzarci anche con Twitter che... non facciamoci mancare niente. Instagram invece lo lasciamo un po' da parte perché, come vedete, non ho una bellissima faccia da far vedere in giro e fare foto non è che sia tutto questo plus a questa trasmissione. Spero invece che vi interessi quello che ho da dirvi. Quindi, oggi siamo qua per parlare del Gusto del Delitto, gioco di Graham Wesley, autore inglese, gioco della scena indie, bombolonica, chiamatela un po' come volete, cioè tutti quei giochi che dal 2000 rotti in avanti hanno cercato di capire cosa funzionava e cosa non funzionava dei giochi, di cambiare leggermente le meccaniche all'interno del gioco di ruolo e di renderli più funzionali, ok? Sono diversi dai giochi di ruolo classici, alla Dungeons & Dragons, che sono fossilizzati sullo schema. C'è un master che muove il mondo e fa una storia e ci sono dei giocatori che muovono i personaggi e si affidano al master per ogni cosa che devono fare, ma invece cercano di coinvolgere un po' tutti i giocatori con delle regole chiare e funzionali, ok? E il Gusto del Delitto si mette in questa schiera, ok? Chiamatele un po' come volete, chiamatele pizzottelle alla crema, quello sono dei giochi. Allora, il gioco è del 2009, pubblicato in Italia del 2010, da Narrativa. Il gioco tratta, come dicevo prima, i gialli di stampo inglese, tipo all'Agatha Christie, cioè in cui in una casa inglese del 1930 circa, degli anni 30, della campagna inglese, sapete, quelle con il padrone di casa, con la figlia vestita di tutto appunto che deve rispettare certe regole, magari la nonna che vive ancora lì, magari il cugino americano che ha i suoi modi diversi da quelli che richiede la ligia, come si chiama, etichetta, rigida etichetta, che c'è tra la nobiltà, tra virgolette, chiamatemi borghesia, nobiltà inglese, quel rigore per cui ci si deve vestire in una certa maniera, ci si deve presentare in una certa maniera, ci si deve comportare in una certa maniera, ok? C'è questa casa nella campagna inglese, questo casato, tra virgolette, che però sotto la patina di bellezza, di chiarezza, trasparenza, che in realtà non c'è, nasconde tanta di quella merda, ok? Come nel classico giallo, tra virgolette, all'inglese, all'Agatha Christie. Infatti, in questo gioco si andrà nella prima parte a mostrare i legami tra i personaggi e nella seconda ad approfondire la merda, il mistero che c'è sotto, ok? Il gioco, infatti, si divide in due. Nella prima parte i vari personaggi faranno delle scene in comune e poi andranno a fare delle scene personali all'interno di questa scena in comune, come delle gemme, ok, che escono da questa scena in comune, e in queste scene personali si obbligheranno l'un l'altro, a seconda della forza che hanno, dei numeri di dadi che hanno l'un l'altro, si obbligheranno a fare qualcosa per il proprio interesse. Quindi nella prima parte si scoprono le relazioni tra i personaggi, perché magari il cugino inglese che deve essere cacciato scopre che il padrone di casa in realtà ha perso tutta la sua ricchezza, quindi è in rovina e va avanti solo di facciata, ma in realtà i creditori bussano alla porta e per questo motivo lo ricatta, oppure che la figlia è in realtà una ragazza troppo leggera e non può ambire a sposare qualcuno, ma il padre la vuole costringere a sposare il vicino di casa buzzurro perché così avrebbe lui i soldi. Tutte queste merdate di intrighi, tutti questi approfondimenti di personaggi vengono creati nella prima parte del gioco. Quando finisce la prima parte del gioco, un paio di giri di scene, si passa alla votazione. Votazione di cosa? Votazione di chi verrà ucciso. L'assassinio funziona in questa maniera. Tutti quanti scrivono su un biglietto il nome di un personaggio. Il biglietto estratto verrà il personaggio del biglietto estratto verrà ucciso, quindi nella seconda parte sarà morto. Si inizierà la seconda parte con il funerale, di solito con il ritrovamento e il funerale, e il giocatore dei quel personaggio prenderà invece in mano l'investigatore che irrompe nella casa per scoprire cosa è successo, e anche lì altra merda. Si andrà ad approfondire il perché è stato commesso l'omicidio, si andrà a approfondire il come e quale motivazione lega, e soprattutto chi è il colpevole, attraverso una meccanica di approfondimento di personaggi. Vi dicevo, perché è bellissimo questo gioco? Perché oltre a creare collaborativamente una storia, e poi nella parte più succosa e interessante vedremo come, inoltre ricrea, mette dentro attraverso delle procedure, delle meccaniche, le varie, i vari stereotipi, i vari classicismi di questo tipo di storie, ok? Per esempio, scusate ma mi si stava seccando la gola, chiedo venia. Per esempio c'è una meccanica, una procedura, un qualcosa che all'inizio della scena collettiva fa tirare un dado per scoprire che tempo ci sarà, ed è divertentissimo per esempio scoprire che ci sarà una partita di tennis o di croquet o di un picnic nel giardino, nel bosco della villa, nel labirinto che sorge di fianco al giardino della villa, mentre c'è la nebbia o mentre magari inizia a piovere, per cui queste regole rigide da rispettare, per cui il picnic si farà lo stesso perché ogni domenica in questa casa c'è un picnic, mentre magari tutti cercano di proteggersi con gli ombrelli mantenendo quel minimo di dignità, mentre la scena fa sorridere, un sorriso amaro, un sorriso nero, ma comunque fa sorridere. Mi è capitato una volta di giocare una scena in cui si giocava a tennis nella nebbia. Il mio personaggio, la vecchia, la nonna di casa, la madre del padrone di casa, era seduta sulla sua sedia di vimini, sapete, quelle con lo schienale largo, eccetera, eccetera, e muoveva la testa a seconda di dove sentiva venire il colpo, ma in realtà non vedeva assolutamente niente della partita a causa di una nebbia pazzesca. All'interno di questa scena collettiva, naturalmente, ogni personaggio ha interesse a muoversi verso un altro personaggio, un altro giocatore, e approfondire il legame e costringerlo a fare cose a proprio vantaggio, a manipolarlo. Per cui si creano delle scene divertenti e interessanti all'interno del gioco, cosa che non è mai da sottovalutare, perché le scene belle ma fine a loro stesse non sono interessanti a lungo termine. Cioè io posso giocare una scena bellissima esteticamente, ma se non mi porta a costruire niente, non mi porta da nessuna parte, alla fine di quella scena non avrò così tanto interesse a proseguire. Di solito i giocatori, come le persone nel mondo normale, tendono a proseguire uno scopo, ed è quello scopo che le spinge a proseguire, o no? Tipo adesso io sono sicuro che voi avete lo scopo, avete la voglia di vedere cosa vi dico nella seconda parte. Cosa vi dico nella seconda parte? Buonasera. No, in realtà Hitchcock c'entra poco, però se vi ricordate c'era una serie che passavano a mezzogiorno in TV quando ero giovane io. Quando ero giovane io. Lasciamo perdere. Passiamo alla parte più interessante, tra virgolette, di aperitivo ludico, dove vi spiego. Parliamo di come i giochi riescono a funzionare, a ricreare quello che vogliono ricreare, in questo caso un giallo, ma non un giallo classico. Cioè, una storia in cui, ah, allora aspetta, io metto giù, se vi ricordate ne abbiamo parlato anche nel Mostro della Settimana, in cui c'è un mostro che fa brutte cose. Voi investigatori, cacciatori del mostro, scoprite perché e chi è il mostro che fa brutte cose e lo uccidete. E in questo caso no, non c'è un master che lo prepara. E voi direte, ma come si fa a fare un mistero se non c'è un mistero? Magia! In realtà, questo gioco è semplice e geniale. Cioè, presenta una situazione in cui i personaggi sono legati l'uno all'altro da qualcosa di sgradevole, qualcosa che sbilancia la situazione, ok? Dei problemi personali che possono essere risolti da altri PG, per cui sono invogliati ad andarli a cercare all'interno delle scene collettive e far fare e manipolarli. Torniamo un attimo indietro. Scene collettive. Le scene collettive a cosa servono? Vengono create secondo gli stereotipi, sempre in un luogo diverso: il camino grande della casa, la sala da tè, il vivaio, il labirinto. Il gioco dice che deve essere ogni volta diverso e naturalmente dice di andare a prendere tra i vari componenti della mitologia inglese degli anni 30, ok? Dei grandi casati. Se qualcuno è spiazzato, ma credo che se vi interessa giocare questa cosa, qualcosa ne sappiate, c'è un capitolo nel libro, per cui magari potete anche imparare, se magari vi è letta questa costruzione del mistero, collettiva, potete andare a scoprire qualcosa della mitologia anni 30 inglese, nel manuale stesso, ok? È stato fatto un capitoletto apposta, semplice, giusto per fare atmosfera. Atmosfera che viene creata da questi appuntamenti collettivi. Per esempio, la corsa nel labirinto della domenica che la casata fa da 300 anni, per esempio. Si mette il tempo che va a fare quella piccola stranezza nella cosa decisa e già si comincia a creare un mood. Se per esempio io creo una scena collettiva in cui devono esserci tutti i personaggi, in cui si beve il whisky davanti al camino, ma il camino è spento perché io voglio dire con questa cosa che la nostra famiglia in realtà non ha i soldi per tenere acceso il camino tutte le sere per sprecare legna. Oh mio Dio, dove vai figliolo a sprecare tutta quella legna? Risparmia, invece di un ciocco di legno, usane metà intanto e l'altra metà domani. A parte gli scherzi, scena collettiva. All'interno di questa scena collettiva, ogni personaggio può portare in disparte e descrive lui come e dove, a volte può essere dentro un cespuglio. Una volta, per esempio, mi è capitato di giocare a croquet, naturalmente con fenicotteri rosa, come la tradizione vuole. E buttare la pallina appositamente in mezzo ai cespugli in modo da invitare l'amico di famiglia cortese, giovinotto, bel giovinotto, ad aiutare la mia anziana signora a trovare la pallina e manipolarlo all'interno dei cespugli, costringendolo ad andarsene da casa. Scena collettiva, scena in piccolo. Queste vanno ad approfondire i personaggi. Si arriva a metà, si vota il personaggio più odievole, tra virgolette, no? In realtà più interessante a far morire, e quindi si crea una situazione di famiglia, ok? Di base. Si crea un personaggio che è stato ucciso, assassino. Chi l'ha ucciso e il movente vengono creati nella seconda parte, in cui questo ispettore Cross, preso dal giocatore che aveva il personaggio ucciso, comincia ad entrare nelle scene di vita collettiva della casa dove tutti rispettavano queste regole di formalità apparente e lui che invece viene da fuori comincia a romperle queste regole perché magari a lui non interessa fare il picnic la domenica previsto dalla casata oppure rispettare la formalità con cui si rivolge alla vecchia signora madre del tenutario oppure lui non cerca di tenere quel distacco con la servitù che invece hanno i signori della casa perché l'etichetta lo prevede. Tutto questo personaggio che va a rompere le cose andrà a approfondire cosa i personaggi stanno nascondendo. E ogni personaggio costretto a rivelare cosa ha combinato sempre più approfonditamente fino alla terza volta in cui viene coinvolto tirando i dadi, per cui c'è sempre questo meccanismo di guadagno e perdita dadi che costringe gli altri giocatori a rivelare segreti nella seconda parte. Finché alla terza rivelazione il personaggio sarà costretto a rivelare un movente con cui avrebbe potuto uccidere la vittima. Quando due giocatori, due personaggi si trovano in questa situazione, si andrà al confronto finale in cui tutti i personaggi riuniti nella stanza finale, come in un classico giallo che si rispetti, faranno la loro arringa per dimostrarsi innocenti. E la meccanica ancora, il tiro di dado ancora, determinerà chi è il colpevole. Oltre a tutto questo, voi direte, ma le scene potrebbero essere in tono divertente, in tono drammatico, chi decide questa cosa? Ecco un'altra figata di questo gioco. Ci sono due ruote con dei mood, tipo disperazione, rabbia, allegria, eccetera, eccetera. Su queste ruote, a seconda di come si muovono le scene, vengono mossi dei dadi, ok? Un dado nero, un dado bianco. Per potersi accaparrare quei dadi, ricordiamo che i dadi servono per manipolare le altre persone e per e per rivelare i segreti degli altri personaggi, quindi avere vantaggi, per accaparrarsi questi dadi bisognerà cercare di rispettare il mood nella scena. A decisione del tavolo, quindi dei giocatori, chi avrà interpretato il mood in quella scena si accaparrerà il dado. Quindi a far andare la scena secondo un determinato mood predeciso e che comunque rientra all'interno del gioco, perché non si scazzerà mai, il gioco non ti punta a far scazzare ma ti premia se rispetti il mood. Piccola parentesi, non come l'allineamento che ti dicono devi essere così, punto, e non ti premia e non ti dà meccaniche per rispettarlo. Comunque, spazio reprimenda, spazio rent a parte, questi dadi vi premiano per rispettare il mood che c'è all'interno del gioco, altra caratteristica che va a creare quello che deve essere creato all'interno del gioco. Comunque, quando verrà svelato il colpevole, il mistero sarà creato. Voltandovi indietro, avrete visto che questa giocata, a proposito, il gioco si fa in 4-5 ore, ma una o due sessioni al massimo, due se si va proprio tranquilli, una se si va un po' veloci, da 4 a 8-9 giocatori. Alla fine il numero di giocatori aumenta solo la durata del gioco, ok? Per cui potete giocarlo anche in molti. Bene. Mi sembra di avervi detto tutto sulle meccaniche. Se mi manca qualcosa mi perdonerete, ma così mi tengo anche qualcosa per fare una prossima puntata, vero Orsacchiotto? E anche questa sera c'è l'Orsacchiotto che mi fa da contraltare, da avvocato del diavolo in aperitivo ludico. Io vado avanti con l'aperitivo, se anche voi lo state facendo, cin, prima di cena, e al prossimo spazio. Scusate, bevevo perché dopo mezz'ora a parlare mi sono accorto che non avevo iniziato la registrazione, per cui tutto quello andrà perso come lacrime nella pioggia, e invece vi beccherete questo che sto per dire, che poi sarà infinitamente peggiore. Sicuramente quello era bellissimo, ma nessuno ne avrà memoria, nessuno lo saprà mai. Allora, cercando di ricordare cosa ho detto prima. Intanto il nome dell'autore, Graham Wesley, di questo gioco e Taste for Murder e di quello che ha combinato. Intanto nota di applauso all'autore, perché? Perché è una persona disponibilissima. Mi è capitato di incontrarla alla scorsa Etrusco, una piccola grande con che viene organizzata a Montecatini due volte all'anno, vi consiglio di cercarla in internet, in cui ci si trova in un albergo per giocare, ok? Mi è capitato di incontrarlo quest'anno e di farmi autografare il suo gioco. Ma due anni fa mi era capitato di incontrare Ron Edwards, altro autore di cui parleremo prossimamente, e attraverso un piccolo dialogo, scherzo, incomprensione, eccetera, eccetera, era venuto fuori e mi ero fatto autografare il manuale di Wesley, dicendo, in cui Ron scriveva che Graham, l'autore di questo gioco, ha scritto questo gioco per fare spanking attraverso la fiction. Quando l'ho fatto vedere a Graham, lui gentilissimo e divertendosi della cosa, ha risposto a Ron come dedica sul manuale, dicendogli altrettanto, rispondendogli a tono. Gentilissimi entrambi, persone squisite, vi consiglio di andare a queste con, Etrusco in questo caso, Internos Con e l'altro, e di incontrarli personalmente, disponibilissimi. Comunque, dicevamo a Graham e allo Spanking, no, di Graham e di quello che aveva fatto prima. Partiamo da Play and Safe, un saggio che aveva scritto anni prima su come inserire all'interno del gioco di ruolo tecniche di teatro e non, comunque cose interessanti e vicine al giocatore stesso per rendere il gioco più interessante, senza paura, ma con intelligenza. Cosa vuol dire? Se vi capita, ecco, come è capitato a me in Dungeon World, a proposito, non abbiamo ancora parlato di Dungeon World, vero? Pensare che era una cosa che volevo, di cui volevo parlare subito perché pensavo facesse abbastanza colpa a livello di marketing. Vabbè, ne parleremo. Questo vi spiega anche quanto ci tenga alla pubblicità e al marketing. Anzi, resharate questo video e parlatene ai vostri amici, fatelo ascoltare. No, in realtà se vi piace ascoltatemi e ditelo ai vostri amici. Dungeon World, quando mi è capitato di giocare, il GM mi ha chiesto, io ho scelto di fare il druido che si trasforma in animali, il GM mi ha chiesto in che animali si trasforma il tuo druido. Io, amante dei draghi, come tanti altri, ma non per questo devo farne a meno perché mi piacciono, perché sono uno dei tanti, ho detto draghi. Drago e il mio druido si trasformava in 3-4 tipi di draghi, da quello possente da combattimento con la pelle tipo roccia spaccata eccetera eccetera, a quello che sembrava una libellula gigante, un misto tra leggiadro, diciamo tipo i draghi cinesi giapponesi, ok? E io ci ho messo dentro una cosa che mi piaceva, ma non solo in quel senso, è quello che vuole intendere Graham in Play and Safe, ma anche per esempio quando giocate in giochi che magari sono più realistici tra virgolette, nel senso che sono meno fantasy, ci mettete dentro cose che vi stanno vicine, tipo la gestione della rabbia oppure il perdono di un amico. Ok, adesso magari queste sono cose un po' pallose e rompicoglioni, però in realtà sto parlando di tutte quelle cose che vi piace trattare all'interno del gioco, potete mettere all'interno del gioco e che il gioco tratta a livello tratta in modo terapeutico. Cosa vuol dire terapeutico? Parolone terapeutico. No, in realtà è come quando vado a giocare a Dungeon Dragons e voglio uccidere 400 orchetti. Perché? Perché al lavoro mi hanno fatto incazzare e al lavoro non posso uccidere nessuno, mi sfogo in Dungeon Dragons. Ecco, terapeutico in quel senso, ok? Bene, Play and Safe, vi consiglio di leggerlo, di Graham Wesley, di recuperarlo e di leggerlo, tratta appunto per esperienza personale come inserire cose interessanti all'interno dei giochi di ruolo, ok? Della sua esperienza vedrete che ci sono cose che direte, ah beh, ma allora aspetta, questa è una cosa figa. Esatto, proprio quello. Altra cosa per cui è famoso Graham Wesley sono la sua conoscenza, i suoi legami, noi due Graham sappiamo cosa intendiamo, con il mondo di Cthulhu, ok? Ha scritto diverse avventure, diversi moduli, diverse ambientazioni, tra virgolette piccole ambientazioni, sia per il richiamo di Cthulhu, gioco storico di cui un giorno parleremo perché la mia storia come giocatore di ruolo nasce con il richiamo di Cthulhu. Mi ricordo ancora quella volta in cui sono andato in dei giochi dei grandi, il negozio di giochi di ruolo della mia città, Verona, e ho chiesto il gioco di ruolo, loro mi hanno proposto D&D, io ho detto vorrei qualcosa di meno combattimenti e loro mi hanno mandato alla biblioteca, alla libreria vicino ad acquistare, perché sì, allora si acquistavano anche in libreria, ad acquistare il richiamo di Cthulhu, e da lì la mia storia con i giochi di ruolo è cominciata, ma ne parleremo. Comunque, vi dicevo avventure sia per il richiamo di Cthulhu che per Sulle tracce di Cthulhu, versione nuova edita dalla Strate Libri, un gioco per giocare le avventure tratte dalle storie e dai racconti di Lovecraft, i miti di Cthulhu, eccetera, eccetera. Per chi non li ha letti, si tratta di un horror che è molto affascinante, si basa su questa mitologia in cui creature aliene, gli antichi, i grandi antichi, un giorno si risveglieranno perché col passare degli eoni anche la morte può morire si risveglieranno e riprenderanno il potere sul mondo che una volta era loro, ma ora stanno dormendo. Alcune persone passano il velo della gente comune e scoprono che questi antichi esistono, che ci sono dei cultisti che li adorano impazziti o meno, e che il mondo è in pericolo, ok? Tutta questa tematica viene affrontata in diversi modi nei racconti e nelle avventure. Lui ne ha scritti diversi fino ad arrivare a scrivere un trattato, un libro che si chiama Stinging Tulu, in cui, tra l'altro finanziato con crowdfunding, in cui lui ha fatto reverse engineering, ok, parola nuova per intendere che ha smembrato, ha spezzettato, ha decostruito i racconti e le avventure basate su questa mitologia per spiegare come funzionano. Ad esempio, mi è capitato di leggiucchiare e vedere, per esempio, nei racconti o nelle avventure di solito si mette un mostro solo, un nemico solo, un mostro solo, perché metterne diversi di diversi tipi di solito sminuisce quelli più piccoli e quindi è po' un perdere in risorse. Invece, anche se piccolo tra virgolette, ma metterne uno solo, un tipo solo, lo rende comunque una minaccia impressionante, ok, e stupefacente. Questa, per esempio, è una piccola cosa che mi è capitata di leggere, ma se vi interessa Tulu, se vi interessano i miti, se vi interessa questo tipo di giocattoli, se vi interessa creare avventure, sicuramente vi consiglio di leggere e di recuperare, disponibili in PDF, Stinging Tulu. Allegato a Stinging Tulu, un gioco che aveva creato lì, Tulu Dark. Mi ricordo quando ha spiegato perché l'ha chiamato così, ha detto Tulu perché tratta Tulu, ma siccome era un gioco di due pagine voleva chiamarlo Light, leggero. Ma Light è anche luce e non ci stava troppo con Tulu, per cui l'ha chiamato Tulu Dark. Ok, a parte questa piccola curiosità, giusto per dire, è un gioco in cui con poche meccaniche leggere si ricostruiscono i racconti, le avventure di le investigazioni a tema tuloide o comunque dei miti di Lovecraft. Bene, mi sembra di aver parlato abbastanza di Graham e della sua connessione con i miti, vero? Al limite del fanatismo, del cultismo, e mi sembra di aver detto abbastanza del gusto del delitto. Io spero di, lo sto mostrando ancora perché mi danno una percentuale sulla vendita, naturalmente, io spero di avervi invogliato a provarlo, a comprarlo e provarlo, perché a me, personalmente a me, il gusto del delitto è un gioco che è piaciuto molto, che l'ho giocato diverse volte e mi diverte ogni volta, ok? Era da un po' che non lo giocavo, penso che lo riproporrò prossimamente o una con o a un gruppo di amici. Per quanto riguarda aperitivo ludico, vi rimando alla settimana prossima. Sabato o domenica prossima, adesso vediamo, probabilmente andrò a trovare gli amici della Dreamlore Press, quelli di Fate, a Bassano, tutti in gioco, una manifestazione ad ingresso libero che si trova a Bassano, basata sul gioco in scatola, gioco di ruolo, per cui andrò a trovarli e a giocare con loro, a passare una giornata sul ponte di Bassano e là ci darò la mano e tenero bacin d'amor. A parte il bacin d'amor, vi ringrazio tutti, vi mando un bacino d'amore a tutti quanti e vi saluto dall'undicesima puntata di Aperitivo Ludico, qui Marco Andretto, passo e chiudo e citando Lovecraft, non è morto ciò che in eterno può attendere e col passare degli eoni anche la morte può morire.